diplomaticamente la situazione è insostenibile. Viktor Lushchenko avrebbe perso oltre il 10% rispetto a quel che i sondaggi gli davano. I brogli sono confermati dagli osservatori. Da settimane si sa che Putin briga per far vincere Viktor Yanukovych, e questo non solo con metodi trasparenti. La folla invade le piazze da 3 giorni e nessuno dei dimostranti manifesta in favore del neonominato filo russo. Tutti lì pacificamente ad aspettare che invece se ne vada e a distribuire fiori sugli scudi delle forze dell'ordine. USA, Canada e Europa non riconoscono la legittimità dello scrutinio. L'Europa, a dire il vero, poi si è spaventata per la visita di Putin ed è ripiegata su di una ricomposizione negoziale del conflitto sociale. Ormai Putin è politico di lungo corso. Cosa lo spinge a non ritirarsi? La situazione è più complessa di quel che sembra. L'Ucraina storicamente è divisa in due, una metà filo russa e una metà filo occidentale, e in entrambi i campi è caratterizzata da un forte nazionalismo e da una grande voglia di indipendenza. Ucraina in realtà non è neanche il nome geografico della regione che denomina. Ucraina significa periferia ed è stato preferito al nome tradizionale, piccola Russia, proprio per svincolarsi dalla presa dell'ingombrante vicino e soprattutto per non ricordare comunque che la maggior parte della popolazione parla russo, mentre l'ucraino, propriamente detto, viene appunto parlato nelle periferie, nelle campagne. Due sogni principalmente caratterizzano la popolazione ucraina. Il primo è quello di una grande Ucraina indipendente, i cui confini arrivino fino a Stavropoli. L'altro sogno invece è quello di agganciarsi all'Europa, magari insieme alla Moldavia e alla Georgia. La Russia invece fornisce gas naturale e petrolio, mentre l'Europa offre prospettive economiche più complesse, anche se più difficili da raggiungere. Ed è proprio in questo campo che Lushchenko è riuscito ad emergere come capo della Banca Centrale Ucraina dal 1993 al 1999, imponendo riforme economiche fondamentali per il passaggio all'economia di mercato, mettendo le briglie all'inflazione galoppante e introducendo la moneta nazionale, la hryvnia, nel 1996. E allora Putin vorrebbe far leva sull'economia del gas naturale, del petrolio, sulla cultura russa, vorrebbe proporre un modello economico della povertà in crescita, lo stesso che propugna in Russia, a costo di perdere un po' di libertà, che si avvii però un processo di rinascita economica nazionale e regionale. Un ragionamento quasi sensato se Putin non si rivelasse agli occhi della stampa estera, non ancora sotto il suo controllo, con qualche neo di troppo. Putin infatti ha un problema politico nuovo, ora che sta vincendo ogni battaglia politica nazionale, ora che controlla gli oligarchi, ora che controlla la stampa, per ottenere questo controllo ha scelto la via breve, l'accerchiamento del sistema democratico russo, ma questo accerchiamento lo sta progressivamente escludendo da ogni possibile relazione internazionale. L'economia russa non promette nulla agli ex paesi satellite e non sono ancora tornati i tempi in cui la Russia si poteva permettere di mandare i carri armati su Praga. Tito Gandini, Web Magazine per Amisnet.